si apre con un incontro. L'incontro è l'autobus del jazz. Quest'anno ci saranno diverse novità, una su tutte. Intanto siamo con Vanni Masala, sono del comitato organizzatore del Bologna Jazz Festival. Tu hai curato un progetto appunto particolare in relazione all'autobus del jazz, ce ne puoi parlare? Sì, ogni anno, come ogni anno, il Bologna Jazz Festival affida la propria immagine a degli artisti. E, per esempio, si è partiti negli anni scorsi con Scozzari, poi c'è stata Vanna Vinci, Emanuele Fior. L'anno scorso c'è stato un non plus ultra illustrazione come Mattotti. Quest'anno abbiamo deciso di affidare a un artista che si chiama Andrea Bruno non solo il compito di illustrare il Bologna Jazz Festival, ma anche di coordinare un gruppo di ragazzi disabili mentali, che con la sua guida hanno prodotto i disegni che caratterizzeranno il Bologna Jazz Festival di quest'anno, insieme all'immagine principale, che è per l'appunto di Andrea Bruno. E com'è stato lavorare con questi ragazzi? Che l'entusiasmo, la musica ovviamente, è una possibilità in più, quella di esprimere il senso artistico. Questi ragazzi erano coordinati da una struttura. Innanzitutto c'è da dire che il progetto è stato portato avanti in collaborazione con Bilbul Bull, come gli altri anni, il Festival Internazionale del Fumetto. Lavorare con questi ragazzi è stato piuttosto semplice, un po' per la bravura dell'artista, di Andrea Bruno, un po' perché per la disponibilità da parte della struttura, una struttura specializzata in assistenza a persone che hanno questo tipo di problemi, e nei ragazzi è stato riscontrato un grande entusiasmo. Sono stati 8, hanno prodotto con grande entusiasmo una cinquantina di disegni, alcuni dei quali sarà possibile vederli sull'autobus del jazz, che girerà come autobus di linea, ma anche in due esposizioni, una al binario 69 in via Carracci durante il festival, che ricordo si svolgerà dal 25 ottobre al 25 novembre, e l'altra esposizione è al Torrione di Ferrara dopo il festival. Certo, quindi un impegno reciproco e un valore aggiunto per la nostra città. Questa idea com'è nata? Dove si poteva andare dopo un illustratore come Mattotti, per andare più in alto? O si cercava qualche illustratore di livello internazionale, e abbiamo anche valutato questa opzione, oppure si poteva fare una cosa che in qualche modo desse un tocco originale, perché è la prima volta che viene fatto. Questi ragazzi hanno disegnato con l'accompagnamento di musica jazz, dare una cosa originale alla città e dare anche un segnale di impegno nel sociale, che si concretizza con il Bologna Jazz Festival, non solamente con il progetto Illustratori, ma anche con altri progetti. Ricordiamo Sound Roots, che è inserito all'interno del festival e che è dedicato alla musica dei musicisti migranti. Certo, io ti ringrazio tantissimo e onore al merito per questa iniziativa. Grazie a te, ciao.